una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino segnato. Cercavi conforto in un uomo contorto, ma il fato beffardo ed il fiato è già corto. Per noi non c'è cura, non c'è medicina, se poi mi sento solo quando mi sei vicino. Coscienza lava secco, una doccia di sangue freddo. Sono talmente perso che non trovo più me stesso. Nulla accade dal nulla, ne son certo. La mia ambizione ha superato di gran lunga il mio talento. Si potesse cancellare tutto il male, non verrei come Assenzio stanotte. E quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio a pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo da mesi allo specchio, ed un po' che sospetto che dentro il riflesso ci sia quella maschera che mi hanno messo. Per tornare a casa, punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia, ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera, ma non portarti via la mia ragazza. In un attimo solo capire veramente quello che conta, realizzare per tempo che nessuno vive per sempre. Quante domeniche a casa in hangover invece che andare a trovare la nonna. Adesso mi manca della dolce vita, me ne pento amaramente. Perché quando corri per vincere non vedi quello che perdi. Tua mamma chiama in ufficio, tu rispondi in fretta e coi nervi. Tra chi è troppo avanti che arriva in ritardo, comunque nessuno è in orario. Io voglio tagliare la corda più che volere tagliare il traguardo. Si potesse cancellare tutto il male, non verrei come Assenzio stanotte. E quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio a pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo da mesi allo specchio, ed un po' che sospetto che dentro il riflesso ci sia quella maschera che mi hanno messo. Cenere. Voliamo via se il vento soffia forte. Più preziosi di un diamante che diventa luce quando fuori è notte. Divento luce se là fuori è notte.